in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa internazionale. Abbiamo allargato da qualche settimana, ormai da qualche mese, l'orizzonte, non più solo su temi europei, ma su proprio temi internazionali. E come accade da qualche settimana, da quando, come sa chi mi segue, mi sono riabbonata alla Zeit, questo settimanale che ha però il formato di un grande quotidiano, come erano una volta i quotidiani, cominciamo ancora una volta dalla Zeit, che trovo sempre interessante, come forse ho già avuto, senza forse, ho avuto occasione di dirvi, è interessante sia per i contenuti, sia per lo sforzo grafico e di scelta delle fotografie che fa la redazione. Per esempio su questo numero c'è un articolo che si intitola Schweden zieht die Preise an, cioè la Svezia alza i prezzi, e in realtà l'articolo è proprio scritto dentro a una maglietta, la foto di una maglietta, perché il riferimento è al riposizionamento che vuole fare H&M, che è questo colosso del fast fashion, anche se poi se dite ai vertici di questa azienda che li definite fast fashion non sono contenti, questa definizione di moda veloce non è mai piaciuta a H&M. Il risultato comunque è che hanno capito che se fai una guerra sul prezzo potrà sempre arrivare qualcuno che fa un prezzo più basso del tuo. Per esempio in questo caso c'è un'altra catena, Primark, spiega la Zeit, e quindi loro hanno deciso di alzare i prezzi ma anche alzare la qualità, e poi di fare un po' come ha fatto il colosso Inditex, che è invece il colosso spagnolo la cui insegna più famosa è Zara, ma ne ha molte altre, di non avere solo un'insegna, in questo caso appunto H&M, ma di averne sempre di più. In Italia, spiega sempre la Zeit, ce ne sono già in Europa ce ne sono già altre come COS and Other Stories, ma abbiamo in serbo, così come del resto il gruppo Inditex porterà in Italia anche altre insegne. Poi c'è un approfondimento sulla tendenza, una tendenza che si è vista in questa estate negli Stati Uniti, ma non solo, e che tra l'altro negli Stati Uniti ha dato origine ai disordini di Charlottesville, con in piazza abbiamo visto anche questi suprematisti bianchi che hanno tra l'altro collegamenti con quello che c'è ancora, perché c'è ancora, del Ku Klux Klan negli Stati Uniti. E tra l'altro ho visto un articolo anche di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera di giovedì su questo stesso tema, cioè il titolo della Zeit è un paese in guerra con l'arte o impegnato in una guerra con l'arte. Il tema è quello appunto della rimozione, per esempio nel caso degli Stati Uniti, delle statue che ritraggono gli eroi della guerra di secessione, e sono soprattutto presenti negli stati del sud che quella guerra l'hanno persa, ma in Italia ovviamente ciclicamente torna il tema di tutti i monumenti edificati durante il periodo del fascismo. La Zeit, abbiamo detto, è un settimanale, però oltre a uscire con questo formato tipo grande quotidiano, ha anche al suo interno un magazine che appunto si chiama Magazine. Molto bella la copertina di questa settimana, che è intitolata Was wäre wenn allein Frauen alles entscheiden würden? Che cosa succederebbe se le donne potessero scegliere tutto? E abbiamo visto che non sempre noi donne forse possiamo così farci questo film, questo bel film, che se noi comandassimo tutto il mondo sarebbe migliore. Non necessariamente una donna al comando, almeno in un sistema economico come quello occidentale, non sempre una donna al comando dà poi una prova così, soprattutto dal punto di vista diciamo etico, così migliore di quanto faccia un uomo, quanto abbia fatto un uomo. Le ragioni possono essere tante, in ogni caso appunto è interessante riflettere su questo tema. Altro tema interessantissimo è quello dell'acqua, viene chiamata anche oro blu, e su Internazionale è stato tradotto un articolo di una rivista russa che si chiama Lenta e che si intitola L'acqua contesa. Nelle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale le risorse idriche non mancano, ma sono distribuite in modo disuguale. La lotta per controllarle potrebbe innescare nuovi conflitti. E tra l'altro il tema dell'acqua e di quanto potrebbe o scarseggiare in certi anni, come succede per esempio quest'anno in Italia ma anche in altri paesi europei, o viceversa abbondare, ma abbondare tutto a un tratto, tanto che il terreno non, se una forti acquazzoni o addirittura come è successo in Nepal, India e Bangladesh, la stagione dei monsoni segue una stagione di siccità, il terreno non è, e quindi le falde acquifere non sono neanche in grado di assorbire quest'acqua, quindi è un tema molto importante. Non a caso potrebbe addirittura la conquista dell'acqua, l'assicurarsi delle riserve idriche potrebbe portare a dei veri e propri conflitti, e del resto sappiamo quanta parte abbia nelle tensioni tra Israele e Palestina e palestinesi, perché la Palestina come Stato non esiste, come sappiamo, il controllo dell'acqua e come sia stato usato come di fatto strumento di guerra. A proposito di scienza, sempre da internazionale, un articolo pubblicato dal New Scientist che si intitola «Come siamo finiti nell'universo perfetto?». Questo è un altro tema, secondo me, molto affascinante, specie in anni in cui una sonda è uscita dal sistema solare e altre ne sono state lanciate, sonde che sostanzialmente tramite linguaggio, che è quello che noi consideriamo il massimo del linguaggio scientifico, cercano di spiegare a una eventuale altra intelligenza presente o nel sistema solare, questo è improbabile, o nella Via Lattea, dove siamo, come siamo, chi siamo noi abitanti del pianeta Terra. E da qui anche tutte le indagini su come si è arrivati a un pianeta che ospita la vita, cioè il nostro. Le leggi e le costanti della fisica sono ideali per favorire la vita. Gli scienziati cercano di spiegare questa affascinante sintonia, ma dietro ogni teoria ci sono complessi interrogativi filosofici. Passiamo a un altro tema di grande attualità e però sul quale non riusciamo a vedere un chiaro tracciato, un chiaro orizzonte, ed è la Brexit. Era il 23 giugno del 2016, non del 2017, quando i cittadini del Regno Unito votarono per il referendum appunto sulla Brexit e il risultato fu sì, vogliamo lasciare l'Unione Europea. Passato più di un anno, i negoziati di fatto non sono neppure avviati, un po' per la debolezza che nel frattempo ha dimostrato il governo di Theresa May, un po' perché nessuno, perché è un avvenimento senza precedenti e quindi si sta veramente ancora cercando di capire come avviare questa Brexit. Da qui l'interessantissimo articolo che trovate sul sito Vox Europe di Esther Zalan, che si intitola «Negoziati sulla Brexit, divergenze tra Bruxelles e Londra sui diritti dei cittadini». E c'è tutto un elenco di quei punti che riguardano appunto soprattutto i diritti, dove le posizioni, addirittura prima di sedersi a un tavolo, a un vero e proprio tavolo negoziale, sono molto diverse. Per esempio parliamo del diritto al lavoro, il diritto allo studio, l'assistenza sanitaria, tutti i temi che vanno applicati al dopo Brexit, cioè per come verranno, chi avrà questi diritti tra i cittadini che non saranno più cittadini dell'Unione Europea nel momento in cui entrano nel Regno Unito, ma saranno ospiti del Regno Unito. È appunto molto interessante, anche perché, come ho detto all'inizio, per ora di certezze su quello che il Regno Unito vorrà stabilire con Bruxelles, incertezze non ne abbiamo. L'Osservatorio dei Balcani, invece, sempre grazie a Vox Europe, ci spiega che questa è stata veramente l'estate del turismo nei Balcani. Sappiamo che è stata un'estate ottima anche per l'Italia e per la Spagna, meno buona per la Francia, per naturalmente soprattutto i fatti legati al terrorismo. Ci saranno delle conseguenze probabilmente anche sulla Spagna, dove tra l'altro la stagione turistica dura un pochino di più di quella italiana per gli orribili attentati di Barcellona. Ma quello che sta succedendo, ci racconta appunto l'Osservatorio Balcani, è che la maggiore stabilità politica e i prezzi ancora relativamente abbordabili hanno fatto della regione una delle mete turistiche in maggior crescita negli ultimi anni e sono fonti Eurostat. Quindi nel periodo 2013-2016, ancora di più poi nel 2017, 6 sono i paesi europei dove i pernottamenti dei turisti stranieri sono aumentati ogni anno a un tasso superiore al 10%, e Islanda a parte sono tutti paesi balcanici: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo e Romania. Dal quotidiano invece, dalla Frankfurt Allgemeine, il quotidiano tedesco, forse quello più, diciamo, con la maggiore diffusione nazionale, perché poi in Germania esistono tantissimi quotidiani locali, vi segnalo un articolo uscito sulla prima pagina che parla del fatto che per la prima volta l'Italia, dopo il vertice che si è tenuto a Parigi all'inizio di questa settimana, l'Italia si è sentita capita e sostenuta dall'Europa. Sappiamo che è stato un vertice molto importante, che speriamo abbia poi delle conseguenze concrete, perché oltre ad avervi partecipato il premier francese, quello tedesco, la cancelliera Angela Merkel e Gentiloni, hanno partecipato anche rappresentanti dei paesi africani, e si delinea forse finalmente una maggior cooperazione e quella, una traduzione in fatti concreti di quello slogan «aiutiamoli a casa loro». Le Figaro e molti altri quotidiani francesi danno conto naturalmente della caduta dell'indice di fiducia nel presidente francese Emmanuel Macron, e questo ci riguarda perché alla fine di questo mese si terrà l'incontro per decidere se il governo francese darà il via libera all'acquisizione dei cantieri STX da parte di Fincantieri, l'azienda italiana. Siccome Emmanuel Macron ha fatto di questo un cavallo di battaglia elettorale, a mano cioè, c'è il rischio che più perde popolarità, più magari ribadisca la sua posizione di chiusura a un controllo a Fincantieri, concesso a Fincantieri di almeno il 50% più 1% dei cantieri francesi, come invece era stato già sostanzialmente concordato da Fincantieri con il presidente francese precedente, che sappiamo è il grande sconfitto, François Hollande. Era però l'ultima segnalazione per oggi, anche se avevo messo da parte altri spunti. Ci risentiamo comunque tra circa un paio d'ore per la rassegna stampa italiana e poi domani anche per quella italiana.